La borsa della spesa che se vuota lo sai, mi pesa troppo oramai. 2 chili di patate me ne scelga, però piccole o grandi non so. Il prosciutto, oh no, le telefonerò. Detersivi blu, devo saperne di più. Elena no, Elena no, se sono un uomo più non lo so. La pasta cotta al dente, so che ti piace di più, aspetto a buttarla giù. Chissà se è troppo il sale, ma comunque sotto il letto la polvere non c'è come richiesto da te. Se insalata vuoi, io la condirò poi. Accidenti, il vino, come ho fatto a scordarlo, questo non me lo perdonerai. Sei stanca, lo sai.